Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Diagnosticare la SLA, sclerosi laterale amiotrofica, rapidamente e precocemente tramite un semplice prelievo di saliva. Questo è il risultato di uno studio fatto dalla Fondazione Dognocchi in collaborazione con l'Istituto Oxologico Italiano, pubblicato su Scientific Report a Obiettivo Salute. La dottoressa Marzia Bedoni, ricercatrice responsabile del laboratorio di nanomedicina e biofotonica clinica della Fondazione Dognocchi, che ha ideato e guidato la ricerca. Insieme al dottor Banfi, che è il direttore dell'unità di pneumologia del nostro IRCS, e al dottor Carlo Magno, abbiamo pensato a un nuovo metodo che fosse rapido nell'esecuzione e utilizzasse un liquido biologico facilmente prelevabile. Da qui ci è venuta l'idea di utilizzare la saliva e la spettroscopia Raman. Quest'ultima è una tecnica un po' innovativa nell'ambito, diciamo, bioclinico, e dà risposte in tempi brevi e richiede una minima preparazione del campione. L'obiettivo del nostro studio è stato quello di identificare un biomarcatore per la diagnosi di SLA all'interno di una goccia di saliva. I risultati che abbiamo ottenuto hanno evidenziato una firma molecolare diversificata nella SLA rispetto ai controlli sani, ma anche rispetto ad altre patologie come Alzheimer e Parkinson. Questo metodo ci permetterà di mettere a disposizione dei medici e dei pazienti uno strumento in grado di accelerare sia la procedura diagnostica, ma anche anticipare e personalizzare il trattamento terapeutico e riabilitativo in base alle caratteristiche di ogni paziente. Liquida, biocompatibile, ad alta risoluzione e microiniettabile. Queste sono le caratteristiche della protesi liquida della retina. Messa a punto in Italia, potrebbe essere in grado di aiutare a riparare i danni causati da malattie degenerative o dall'invecchiamento, che possono portare alla cecità, come la retinite pigmentosa o la degenerazione maculare. A Obiettivo Salute il dottor Guglielmo Lanzani, direttore del Center for Nanoscience and Technology dell'IT di Milano, che ha coordinato la ricerca. Parola d'ordine per noi è stato miniaturizzare. Abbiamo realizzato delle nanocelle fotovoltaiche, che sono di fatto delle piccole sfere di polimero, che sono quindi della dimensione delle cellule, degli organelli che si trovano nella retina. Le abbiamo introdotte nella retina e sostituiscono i fotorecettori, assorbendo la luce e trasformandola in un segnale biologico. In questo modo queste nanoparticelle sostituiscono il ruolo dei fotorecettori danneggiati in quelle patologie che portano alla cecità, come appunto abbiamo detto la retinite pigmentosa, che è proprio una degenerazione dei fotorecettori che si scompaiono. È uno studio preclinico e noi speriamo di poter andare sull'uomo in un tempo che potrebbe essere dell'ordine di 5 anni. È una tecnica che è molto meno invasiva rispetto alle tecniche esistenti con delle protesi planari in stato solido, perché viene realizzata con una iniezione di una soluzione acquosa che contiene le nanoparticelle che vanno a disporsi nella retina, nel luogo dove ci sono di solito i fotorecettori. Bene, per oggi è tutto. Come ogni giorno vi invito ai nostri incontri a tu per tu. Oggi insieme a noi il professor Vaira dell'Università di Bologna, con cui parliamo di reflusso e di gastrite. Vi aspetto, non mancate. Una buona giornata da Nicoletta.